Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno dalla TGR del Friuli Venezia Giulia. In studio Walter Scherch e Andrei Marusic. I titoli. Il non raggiungimento del quorum necessario per la validità del referendum propone interrogativi sull'adeguatezza delle norme costituzionali che regolano questo strumento democratico. La Digos di Milano e Como ha fermato 3 minorenni, di cui uno residente in provincia di Pordenone, per incitazione all'odio razziale e antisemita. La polizia locale di Trieste festeggia oggi il 163esimo anniversario della Costituzione. Il comandante del corpo, Walter Millocco, parla del ruolo e dell'operatività del corpo nella situazione sociale attuale. A Udine si è svolta una giornata di reclutamento organizzata dalla regione per reperire almeno 70 persone da impiegare nel trasporto pubblico locale. Al castello di Miramare è stata inaugurata la mostra Ritorni, una nostra intervista alla direttrice del museo, Andreina Contessa. A Gradisca è stato presentato il programma di Onde Mediterranee Festival, che inizierà il 25 luglio. Alla presentazione erano presenti anche i genitori di Giulio Regeni, a cui è dedicata la manifestazione. Lo sport la scherma, la friulana Giulia Rizzi si è laureata campionessa italiana della spada individuale ai campionati italiani assoluti di Piacenza. L'olimpionica delle fiamme oro ha così bissato il successo dello scorso anno a Cagliari, complessivamente il suo terzo titolo nella spada. E iniziamo con il tempo. Cielo sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 25 gradi, a Udine e Gorizia 25 gradi e mezzo, a Pordenone 24 e 5 decimi, a Tolmezzo 22 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 20 gradi e mezzo, a Sulpiancavallo e a Tarvisio 19 gradi, a Sappada 18 gradi e 5 decimi, sul Zoncolan 14 gradi e mezzo, sul Lussari 12 e mezzo, a Grado e Lignano 26 gradi. Le previsioni oggi pomeriggio su pianura e costa, cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana poco nuvoloso, temperature massime in aumento. Domani invece su pianura e costa cielo sereno, sulla zona montana da sereno a poco nuvoloso. Nel pomeriggio soffieranno venti di brezza, temperature massime in aumento con valori elevati in pianura. E iniziamo con la politica. I risultati dei 5 referendum, ovvero il mancato raggiungimento del quorum, pongono il problema sull'attualità e sulla fattibilità di questa forma di consultazione popolare. L'ultimo referendum ad aver raggiunto il quorum è stato quello sull'acqua pubblica. A porsi la domanda sulla congruità delle norme che regolano il referendum sono anche gli studiosi di diritto. Ascoltiamo questa intervista al costituzionalista Dimitri Girotto, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Udine. Lo stato di salute del referendum, come pare evidente, non è affatto buono. Questo forse dipende anche dalla difficoltà di compressione di alcune richieste. Forse bisognerebbe cercare di lavorare anche sul quesito, sulla struttura, renderlo più intelligibile, mettere forse dei limiti di ammissibilità ma diversi da quelli attuali, anticipare il controllo di ammissibilità della Corte Costituzionale. L'ipotesi di abbassamento del quorum è in discussione già da qualche anno. Ricordo che la riforma costituzionale voluta dal governo Renzi, che poi era stata respinta peraltro in un altro tipo di referendum, quello del 2016, prevedeva un quorum mobile, cioè un quorum rapportato alla maggioranza, però riferita ai votanti alle ultime elezioni per la Camera dei Deputati. È una soglia che, per inciso, probabilmente ieri non sarebbe comunque stata raggiunta, anche se di poco. A mio avviso, credo sarebbe comunque utile introdurre una soglia minima di votanti, perché in definitiva il referendum rappresenta in ogni caso un'eccezione al sistema della democrazia rappresentativa. Qual è la sua posizione sull'introduzione del voto online per il referendum? Il rischio principale è proprio quello del controllo, e cioè dell'identificazione senza ombra di dubbio dell'elettore, perché anche attribuendo delle credenziali di voto sarebbe difficile poi accertare che il votante corrisponda effettivamente al soggetto che ha ricevuto le credenziali e che è il titolare delle credenziali stesse. Non possiamo mettere limiti alle possibilità future di migliorare questa certezza. In questo momento credo che ci siano delle difficoltà. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. E parliamo ancora di elezioni e di referendum, ma lo facciamo da un'angolatura un po' particolare. A proporcela è una persona che dal 1982 è presidente di seggio, una figura determinante per garantire lo svolgimento ordinato delle operazioni di voto. 44 anni di onorato servizio a garantire il diritto di voto. Giuliano Benericetti, 63 anni, imprenditore informatico di mestiere, presidente di seggio per passione, o meglio per spirito di servizio, dal 1982. Divenne scrutatore di seggio elettorale per la prima volta l'anno precedente, a soli 20 anni. Ho scelto di fare lo scrutinatore la prima volta a 20 anni perché facevo l'università e qualche lira mi interessava. Poi l'anno dopo mi ha detto: vuoi fare il presidente? E mi sono ritrovato presidente a 21 anni. All'epoca si tenne il referendum sull'abrogazione del diritto all'aborto, dove vinse il no. Si ricorda il voto di allora, dell'81? Beh, il voto di allora era un voto bulgaro. Stavamo sull'82-84%, era tutta un'altra cosa. L'affluenza? L'affluenza, sì. I scrutatori non erano nominati dal comune, erano nominati dagli stessi partiti. Cioè io avevo uno scrutatore che veniva dal PC, uno dalla DC, uno dal PRI, e mi ricordo che uno del PC gli portavano proprio il pranzo, cioè il partito portava il pranzo allo scrutatore che rimaneva in seggio quasi tutto il giorno. In tanti anni ne ha viste di stranezze Giuliano, alcune si possono raccontare, dice, altre no. Una cosa curiosa mi è capitata ieri: un'elettrice è andata in cabina e dopo 10 secondi mi posso farle una domanda? Sì, ma mi ha dato una matita per votare. Ecco, sì, si vota con queste matite che sono incancellabili. Era giovane? Dell'87. 262 euro il compenso per 3 giorni di seggio elettorale da presidente. Con le responsabilità penali che ne conseguono, non si fa certo per soldi, dice Giuliano, che ha tramandato questo suo impegno alla famiglia. Una mia figlia è presidente di seggio, la mia figlia piccola gli fa la scrutatrice e mia moglie è comunque la mia segretaria da sempre. Secondo lei perché c'è questa disaffezione al voto? Troppe elezioni. Abbiamo votato l'anno scorso per le europee, nel 21 le comunali. Ogni anno votiamo, la gente è un po' stufa di votare, ecco. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Avrebbero creato e gestito un gruppo attivo sul web con cui fare propaganda nazifascista e apologia della Shoah, istigando a compiere atti di violenza e spedizioni punitive, arrivando a prospettare la possibilità di procurarsi del denaro per l'acquisto di armi. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Milano, che dispone la misura cautelare delle prescrizioni con divieto di utilizzo di strumenti per l'accesso al web per 2 mesi nei confronti di un 17enne residente in provincia di Como, incensurato e sin qui mai evidenziatosi indagato come promotore di un gruppo finalizzato alla propaganda e all'istigazione a delinquere per motivi d'odio razziale, anche mediante l'apologia della Shoah. Contestualmente sono state svolte 2 perquisizioni nei confronti di altrettanti minorenni. Il primo, residente in provincia di Pordenone, è un membro attivo dello stesso sodalizio, e l'altro, residente nel Comasco, emerso come possibile possessore di armi da fuoco e munizioni. Le indagini coordinate dalla Procura del Tribunale per i minorenni di Milano e condotte dalla Digos di Milano e Como nascono dall'attività di monitoraggio del web nei confronti degli ambienti dell'estrema destra radicale e suprematista. I controlli hanno permesso di individuare su una piattaforma social un gruppo amministrato dall'indagato di esplicita ispirazione fascista e con aperti richiami al nazismo, dove il minore ha svolto attività di propaganda anche di tenore marcatamente xenofobo, omofobo ed antisemita, e ha cercato di reclutare giovani e giovanissimi. Basta ripensare com'era appena una 15ina d'anni fa a Trieste, una città tranquilla e a tratti quasi sonnolenta, periferica rispetto ai grandi flussi di turisti che invece oggi la riempiono sempre più. E cambia di conseguenza il lavoro della polizia locale, che nel controllo dell'area urbana trova il proprio scopo fondamentale. Polizia locale che oggi nella caserma di San Sebastiano in via Revoltella ha celebrato il 163esimo anniversario della fondazione. 163 anni di polizia locale a Trieste, l'anniversario tra pochi giorni, il 13 giugno. Per il corpo, da alcuni anni, il capoluogo giuliano presenta nuove sfide per il controllo del territorio urbano, spiega il comandante della Polizia Municipale di Trieste, Walter Milocchi. L'aumento delle navi da crociera, collegate anche ai problemi del terminale di Venezia, ha comportato un aumento del flusso, ma in realtà il turismo adesso è evidentemente aumentato in maniera esponenziale, con un proliferare sia di strutture alberghiere quanto di bed and breakfast, di anche appartamenti in affitti brevi, con la necessità sia di controllare questo aspetto ma anche di gestire questi flussi che molto spesso giungono con l'autoveicolo privato. Talvolta intasando la città e spesso saturando nei parcheggi. Per fortuna molti triestini vanno in giro a due ruote e abbiamo un ottimo servizio pubblico di trasporto, però i parcheggi rimangono una criticità, anche perché nelle zone centrali ci sono moltissimi residenti e moltissimi edifici del Novecento non sono sicuramente dotati di box e garage. 231 gli agenti di polizia locale in città con nuovi innesti in arrivo. Entro le 23.59 di domani si può far domanda, c'è stato un bando, quindi ci auguriamo di avere 19 nuovi colleghi, diciamo entro l'anno all'inizio del 2026. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca nera, un 42enne triestino è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato, armato di coltello, alcuni infermieri del centro di igiene mentale di Domio. L'uomo, già seguito dal centro, ha aggredito il personale senza un apparente motivo, prima verbalmente e poi impugnando l'arma bianca. A dissuaderlo solo l'intervento dei carabinieri, che hanno approfittato di un momento di distrazione, di distrazione dell'uomo per disarmarlo in sicurezza. Oltre all'arresto per la violenza, l'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Il Friuli Venezia Giulia da due anni non cresce, male soprattutto l'industria e l'export, che al netto della cantieristica perde 4 punti percentuali sullo scorso anno, e quanto emerge dal rapporto sull'economia della regione presentato poco fa dalla Banca d'Italia a Trieste. L'accelerata post-pandemia da due anni ha subito un arresto. Il Friuli Venezia Giulia sta crescendo meno rispetto al resto del paese ed è un andamento degli ultimi 15 anni per questa regione, dice il direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia, Massimo Gallo, nel presentare il rapporto 2024 sull'economia del Friuli Venezia Giulia. Il valore aggiunto prodotto in regione ha un divario di crescita rispetto al resto d'Italia e anche rispetto al nord-est di 7 punti percentuali in meno ed è riconducibile all'andamento demografico particolarmente sfavorevole in Friuli Venezia Giulia, che ha determinato in regione una riduzione della popolazione complessiva e della quota di persone in età lavorativa. Le chiedo, è effettivamente così? Che cosa significa avere meno persone e avere anche persone più anziane? È chiaro che l'avere meno persone o persone più anziane influisce sia sulla domanda di beni che sull'offerta. Dal punto di vista della domanda cala la quantità di beni domandati, andiamo meno a mangiare fuori la sera, compriamo meno derrate alimentari, cambiano i nostri bisogni, magari spendiamo di più per una popolazione più anziana, magari rispetto alle spese per l'istruzione o spese che invece riguardano le fasce di età più giovane, ma nel complesso l'ammontare della spesa diminuisce assieme alla diminuzione della popolazione. D'altra parte anche sull'offerta, perché ovviamente l'offerta di lavoro diminuisce, la quota di popolazione che ha un'età adatta per lavorare, quindi tra i 15 e i 65 anni, diminuisce, e questo significa che il valore aggiunto, quello che loro possono produrre e dare alla regione, al paese, diminuisce in quantità assoluta, e questo è poi il tratto caratteristico di questi ultimi 10-15 anni. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è svolta questa mattina a Udine la giornata del reclutamento organizzata dalla regione, mirata a cercare 70 persone da assumere nell'ambito delle 4 aziende del trasporto pubblico locale, uno dei settori più in sofferenza nel reperimento di personale. La regione aiuta con contributi per l'ottenimento della patente. 160 candidati per 70 posti nel trasporto pubblico locale, soprattutto autisti di autobus ma anche addetti all'officina. Le 4 aziende regionali per la quarta volta hanno partecipato alla giornata del reclutamento organizzata dalla regione. L'iniziativa da diversi anni punta a incrociare domanda e offerta di lavoro in un contesto di crescente difficoltà per molte imprese in alcuni settori a trovare personale. Il trasporto pubblico locale fa fatica negli ultimi anni a reperire autisti, anche per la concorrenza del trasporto merci, dove solitamente gli stipendi sono più alti, in particolare per chi è disposto a viaggiare lontano. Responsabili delle risorse umane sottolineano la minore attrattività dei posti di lavoro basati su turni. Non è un caso che una parte di coloro che si avvicinano a questo mondo arrivino proprio da settori che già prevedono i turni, come ristorazione, grandi distribuzione o sanità. In crescita la presenza femminile e di chi intraprende questa carriera non più da giovanissimo, anche grazie al contributo regionale di 4.000 euro per chi intende prendere la carta di qualificazione del conduttore. conducente, la CQC, una licenza necessaria per guidare un autobus insieme alla patente D. La speranza è che il recente rinnovo del contratto collettivo nazionale convinca più persone a mettersi al volante. Al momento lo stipendio d'ingresso è in media tra i 1.400 e i 1.500 euro in 14 mensilità. Molti candidati in arrivo dal sud Italia, alcuni rimangono, altri invece tornano in meridione, dove pure la carenza inizia a farsi sentire. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Pordenone è stato presentato un nuovo sistema di sicurezza per la segnalazione dell'allagamento e del livello dell'acqua sui guadi dei fiumi. Il servizio. Da oggi è possibile restare aggiornati in tempo praticamente reale su aperture e chiusure dei guadi di Murlis e Raucedo grazie a un nuovo sistema di alert tramite dispositivi mobili promosso dall'Assessorato regionale alle infrastrutture con EDR Pordenone. Cristina Amirante, Assessora regionale alle infrastrutture e territorio. Si tratta di un sistema che abbiamo sperimentato a lungo a Clauzetto a causa della frana che sta ancora interessando la strada. Analogamente, grazie alla proposta dei tecnici dell'EDR di Pordenone, utilizzeremo questo stesso sistema per poter dare la possibilità a chi vuole conoscere in tempo reale se un guado è aperto e chiuso, quindi garantendo la sicurezza ma anche la praticità del transito. Per ricevere sul proprio smartphone le informazioni relative alla percorribilità basta iscriversi alla piattaforma digitale Dico Online. Il messaggio arriverà poi in automatico a tutti gli iscritti. Cinzia Cuscella è direttrice generale EDR Pordenone. Chiunque possieda uno smartphone si collega al portale Dico Online, si registra, ci sono tutte le istruzioni su come registrarsi e così l'utente può, chiunque si iscriva, riceve questo messaggio di apertura o chiusura del guado e successivamente anche il messaggio di riapertura. Il messaggio viene inviato o su canale Telegram o via WhatsApp. I guadi su Cellina e Meduna rappresentano un'alternativa alla Pontebbana in attesa di un'infrastruttura stabile che andrà a sostituire il guado di Murlis come previsto nel secondo lotto della Gronda Nord. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una notizia dell'ultima ora: è appena stata emessa dal Tribunale di Udine la sentenza per l'omicidio preterintenzionale a danni dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga, 12 anni a Battistella, che diede materialmente il pugno, e 2 anni a Juma e 2 anni a Uedam. Per i due è caduta l'ipotesi di concorso in omicidio preterintenzionale. E ora passiamo alla cultura. A Gorizia continua il ciclo di incontri Europa Cultura in Dialogo, il sottotitolo della rassegna promossa dalla Chiesa di Gorizia nel quadro di Go 2025 è superare i confini per essere capitale di una cultura europea. Stasera alle 18 nella sala del Centro Culturale Loise Bratusch a parlare sarà Paolo Mieli, l'ex direttore del Corriere della Sera, sarà intervistato da Ivan Portelli dell'Istituto di Storia Sociale e Religiosa e da Mauro Ungaro del Settimanale Voce Isontina. Ed è stata inaugurata al Castello di Miramare, nella Sala Rosa dei Venti, la mostra Ritorni, 4 opere del XVII secolo appartenenti al nucleo più antico della collezione di Massimiliano d'Asburgo e custodite dalla soprintendenza di Trieste, tornano a Miramare e riprendono posto nella collezione del museo. Ascoltiamo l'intervista ad Andreina Contessa, direttrice del Museo Storico e del Parco del Castello di Miramare. Che opere vediamo qui oggi? Vediamo 4 opere del 600 che appartenevano all'antica collezione di Massimiliano d'Asburgo, anzi sono tra le più antiche da lui acquisite e che per una serie di motivi sono finite nei depositi della soprintendenza. L'idea è stata quella di chiedere la restituzione di queste opere e ricollocarle nel contesto di Miramare, che è il loro contesto originario. Abbiamo anche ricostruito tutta la storia di queste opere, quando sono state acquistate, come sono pervenute nella collezione e anche tutto il loro percorso nel museo, dove erano appese nelle varie epoche. Quindi è stato fatto, dietro questa piccola mostra c'è un grande lavoro di ricerca fatto dall'ufficio mostre. Ringrazio la soprintendenza per la sensibilità nel restituirci immediatamente queste opere, comprendendo che le collezioni non vanno divise, non vanno spezzate, ma vanno tenute unite, perché solo così si comprende il gusto e l'intento culturale di colui che le ha composte, di colui che ha... Che cosa ci dicono su Massimiliano? Ci dicono che lui era sicuramente un collezionista eclettico, perché gli piacciono le opere del Seicento, ma gli piacciono anche i vasi giapponesi o gli orologi, i vasi cinesi. Quindi lui amava veramente attorniarsi di curiosità, però la sua passione per la ritrattistica e soprattutto per i ritratti è fortissima, e in questo è sulla scia veramente degli Asburgo, che da sempre collezionano soprattutto quadreria cinquecentesca e seicentesca veneta, e qua siamo, almeno i due ritratti sono in quell'ambito. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa mattina nella sala del Consiglio Comunale di Gradisca è stata presentata l'edizione di quest'estate di Onde Mediterranee, il festival organizzato dall'Associazione Culturale Euritmica. Si svolgerà dal 25 luglio al 3 agosto. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Gradisca Alessandro Pagotto, l'assessore alla cultura Marco Zanolla, presenti anche i genitori di Giulio Regeni, la mamma Paolo e il padre Claudio. Il festival è infatti dedicato alla memoria del giovane ricercatore barbaramente ucciso dai servizi di sicurezza egiziani. A parlarci dell'edizione di quest'anno di Onde Mediterranee il direttore artistico Giancarlo Velisci. Onde Mediterranee, 29esima edizione, comincia proprio il 25 luglio e avremo, insomma, come sempre un cast molto ricco musicalmente. Avremo gli Oflaga, Disco Pax, avremo Meg, la rappresentante di lista, Anna Castiglia, e poi avremo quel satanasso di Pennacchi che fa questo suo Poiana Rock 2, una bomba di musica, ironia, e poi finiremo con Eleonora Sommarelli e Massimo Coppola, e un percorso direi musicalmente molto molto vario e anche originale, mi sento di dire. Particolare spazio dedicato alla rassegna Lettere Mediterranee, di cosa si tratta? Lettere Mediterranee è una sezione di lettere che quindi comprendono interventi legati alla storia, all'attualità, alla società, al pensiero, ci piace definirlo così, e avremo davvero personaggi importanti come Chiara Tagliaferri, avremo Moni Ovadia con Loris De Filippi e anche altre presenze davvero importanti come Anna Foa, a parlare di problemi legati ovviamente alla guerra in Palestina, e poi avremo Filippo Solibello a parlare anche qui di media e di quello che oggi è la società, e poi Piero Pieri con la Capossela che presenteranno quel docufilm sull'ospedale psichiatrico e le lettere dei detenuti a suo tempo, e poi Matteo Caccia, Cirri e poi Cotugno con Sara Segantin, per un percorso davvero importante di occasione di approfondimento di vari temi della nostra società. Siamo allo sport. La spadista friulana Giulia Rizzi si è laureata campionessa italiana della spada individuale ai campionati italiani assoluti di Piacenza. L'olimpionica delle Fiamme Oro ha così bissato il successo dello scorso anno a Cagliari, complessivamente il suo terzo titolo nella spada, il primo è arrivato a Cassino nel 2021. In finale si è imposta con il punteggio di 13-10 su Alessandra Bozza del Centro Sportivo dell'Aeronautica. Medaglia di bronzo per l'altra campionessa squadra di Parigi 2024, Alberta Santuccio delle Fiamme Oro, e per Federica Isola dell'Aeronautica. Softball, successo per la castionese che ha ottenuto un'importantissima doppia vittoria sul campo delle Nuove Pantere Lucca nel confronto valevole per la fase a gironi del campionato nazionale di Serie A2 femminile. Ha vinto gara 1 10-2 e gara 2 invece per 8-5. La compagine neroverde ha così agganciato la Zanese in testa al gruppo B, assicurandosi la matematica certezza di disputare i prossimi play-off per il salto in massima serie, con 4 partite ancora da giocare. E ritorniamo un attimo alla cronaca locale triestina. Ci sarà un ulteriore fine settimana per la sagra di Mattonaia, una delle più popolari in provincia di Trieste. Lo scorso fine settimana gli organizzatori dell'evento, che fa capo all'associazione Fran Venturini di Domio, sono stati derubati dell'incasso di 8.000 euro, incasso che lo stesso sindaco del comune di San Dorligo della Valle e socio attivo dell'associazione Alessandro Coretti ha lasciato in una cassetta all'interno della propria automobile. Miriam Ota, attuale presidente dell'associazione Venturini, ha fatto sapere sulle pagine del Primorsky Neonic che si punta su un ulteriore fine settimana di sagra e di festa. L'associazione non è assicurata contro i furti, dunque si punta alla risposta positiva dei moltissimi frequentatori dell'evento per recuperare l'incasso perduto. E questa era l'ultima notizia. La parte tecnica è stata curata da Roberto Cavallari, in redazione Laura Sarasini, in studio siamo stati Andrei Marusic e Walter Scherk. Vi auguriamo una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.